passato con la tua ragazza, mi hai dato degli acidi buoni che vengono dall'Olanda. E ora sono qui sulla mia branda e mi rigiro, sento Betta che tossisce, mentre vedo il mondo a strisce, la tua faccia multicolore. Poi arriva Danilo e si mette a rollare, tutto in tavola che c'è il da fare, ha portato uno sballo di nero. Ora mi sale più leggero e poi si va fuori che freddo nelle vene. C'è un'osteria un po' più in là dove costa poco e si mangia abbastanza bene. E poi rientriamo in camminata lunare, con i salti di 6 metri ci vedete avanzare. E Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno di luci. Io la bacio senza protestare, poi si va a casa sua lì vicino a fare l'amore, ma senza troppo casino, la sua amica non si deve svegliare, che domani deve andare a lavorare. Quando mi sveglio e sono solo, mi fa male agli occhi la luce, persino il bianco del lenzuolo. E questa è una canzone senza finale, come senza fine il nostro sbatterci, il nostro vivere e il nostro amare. Vivere come in un vortice di lavandino, come la fiamma di un cerino che si consuma e a poco poco poi scompare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare. Ziggy Rolando alla chitarra acustica, Armando Casaroli alla chitarra elettrica. Ciao ragazzi, Truzzi Brothers, che la musica sia con voi. Rifigliati, non mollare, anche se non c'è più niente da fare. Anche se soffri e ti senti distrutto, senti il cuore in gola. Anche se sangue ne vuoi mollare tutto, tu stringi i denti e non pira, finché resti in piedi. Prenditi a pugni con la libertà, rifigliati, non mollare, anche se non c'è più niente da fare. Passa la vita con chi se la gioca, pensa come te lo sai, grida più forte con la voce roca. Giocati tutto dentro un bar con la luna piena, braccio di ferro con la libertà, finché c'è la luna. Rifigliati, non mollare, anche se non c'è più niente da fare. Allora, ripigliati, c'è la sigla, signor.